valigia sul letto è quella di un lungo viaggio, pur senza di niente ha trovato il coraggio, con orgoglio ferito di poi si ribella, ma quando ti arrabbi sei ancora più bella, e così su due piedi sarei liquidato, una vittima sana di un bilancio sbagliato. Un uomo tradisce a metà, per cinque minuti e non devi più, se mi lasci non vale, se mi lasci non vale, ti sembra un po' caro il prezzo che adesso io sto per pagare, se mi lasci non vale, se mi lasci non vale. Da lì tutto il nostro passato non ci può stare. Metti a posto ogni cosa e parliamone un po', di errori nefatti, di colpe ne ho, a quello che conta tra il dire e il fare, saper andar via ma saper ritornare. Se mi lasci non vale, se mi lasci non vale, ti sembra un po' caro il prezzo che adesso io sto per pagare, se mi lasci non vale, se mi lasci non vale, dentro cura la valigia il nostro passato non ci può stare.